Solo una bambina. Non è stata colpa tua. Ero stupida, meritavo di morire. Ma mio padre era debole e ora è lui a essere morto. Che cosa doveva fare? Guardare mentre quello ti mordeva? Se non puoi piegarti, ti spezzi. Lui si è spezzato.